provare gioia. Vedendo altri come te, sono indietro nella gara della vita. La tua coscienza ti dirà così. Se segui la via giusta, non te ne pentirai. La tua coscienza ti dirà che...